Televisione, canale 5, 5, 5, C10, a Farcula 5. Valghetto, la buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, domenica, che si dice domenico? Valghe, si parte. Ma sei ancora di fermo? No, appena partito, dai, è uscito, guarda, con un vano sono. Oh, guarda, con un vano, capparoci. Allora, domenica, tutto a posto? Tutto a posto, dai, si va, si inizia la settimana. Capparoci, andiamo bene. Che si dice, piove, eh? Io so, piove lo sta. E si appercocciolando sta. Kappa, tutto a posto, come è meglio così, no? Purtroppo piove, lasciamolo fare, che si vuole fare? E come mai silenzio stampa oggi c'è? Ah, sono andati a caricare, boom! Ah, ha chiamato lo stomaco così. Ho chiamato lo stomaco e bisogna andare. Positivo, purtroppo quando chiama l'avanza, dice quello là. Allora, quando iniziamo a dottorare bisogna mettere dentro qualcosa, andiamo qua. Mo andiamo a vedere che tempo fa di là. Ma penso stia più bene anche là, penso. Molto probabile. Sì, perché dovrebbe essere tutta la Sardegna, tutta la Sardegna d'Italia e se li vedete è tutta compatta, Ieri ha iniziato, ieri mattina sembrava anche bello e poi si è sporcata. Positivo. E vabbè, bisogna prendere il tempo per come viene domenica. Quello sì. Parogino. E non ci è uscita la macchina dritta, eh? Ah, di sempre. Non manca. Oggi addirittura c'è successo qualche incidente lì prima, diciamo, tra Scala di Gioca, siete a me, lì alla cementeria. Ho sentito, c'era la macchina nostra bloccata stamattina, che stava portando servizio aereo, dalle 9 l'hanno sbloccata alle 11, allora ma diceva c'era il morto. C'è scappato molto, io adesso va bene, il televisore non l'ho visto e non ti so dire niente, ma già saprò domani mattina di preciso. Anch'io ho saputo così, diciamo da 4-5 macchine che c'erano. Sì, dopo la metà catena infatti. Bisogna andare piano, l'asfalto lì, ho bagnato la saponetta. Diciamo e tutti, ma è un attimo, però. Lo so, è un attimo, però ci vuole anche un po' di prudenza, dai. Io vedo un po' la mattina e passano a buco, sparate che sia pioggia, che non sia pioggia, e ci vuole prudenza, ci vuole, non vedo darlo. Cosa vuoi farci, purtroppo? Purtroppo è così. Ui, è così dove. Oggi un viaggetto dove? Hanno pescato, l'hai sentito? Ehi, chi è che vuole entrare un peschetto? Ciao, Sandro, parlatore. Sandro, tu sei? Positivo, mi senti? Ehi, ti sento ma basso, che c'è? No, sono un po' apparatino, dai. Ah, ho capito. Ma è stato di produttore, se lui è con un apparatino. Dove? Domenico deve essere in buca, Sandro. Entro l'aria buca. Ho capito. Mi dici quanto sono basso? Sì, 61, sì, sa, questo ti posso dire. Santiago 1. Tranquillo che il mio non è niente. Dai, ma Santiago 1, così mi segna lo smittere. Così mi segna lo smittere. Domenico Citosì. Stai entrando? A positivo. No, perché mi ha chiesto il controllino Sandro, ma Santiago 1 o 2, ma non di più, infatti. Tu riesci a tirarlo fuori da lì? Perché? Sì. Ma non c'era attenuato l'impossibile, se sei arrivato dopo a me. Ma proprio piccolo, la piccola, la è dopo. Cappa, saluto le robe, nome l'alternatore, ma da parte mia. No, che non c'è tutto le freghe in chiuso, è impossibile che ne arrivate uno, siamo vicini, a me mi sta arrivando 9. Ciao, buonasera a tutti, sono entrati un attimino. Se c'era qualcuno vi ho sentito, dai. Ho sentito a Domenico, ciao Domenico, Sandro, la porta torre e ciao Falchetto. Avanti Falchetto, guarda se c'è, poi c'è qualche problemino tu, qua sta arrivando 9. No, guarda io non ho toccato nulla. Vediamo un po'. Prova Sandro. Sandro, prova a parlare, modulare. Avanti Sandro. Vediamo se c'è Domenico ancora. Domenico, ci sei ancora? No, già ti ascolto. No, io poi questi già li prendo bene. A te, se non hai sentito il bivio di Allena, ti ascolto. Anche se oggi c'è una giornata un po' triste, diciamo, un po' piena di umidità, magari i segnali sono più bassi. Sì, ma no, anche perché non c'ho il mio apparato, capito? Non c'ho il mio apparato, lo so. Tutto qua. No, vabbè, ti ascolto bene. Sei quasi 9, 8 o 6 di Santiago. Ascolti bene, da parte tua tutto a posto. Sì, tutto a posto, bello chiaro. Ciuccio. Tommy, io ho fatto te arrivo lì. Sei più comodo, è più positiva la tua zona. Vedi, vabbè, a lui sta arrivando bene, Sandro mi arriva a bassa, ma si sa perché. C'è da dire una cosa pure, perché magari anche a me mi capita molte volte, molte donne del portatore mi arrivano basse, lui stranamente infatti arriva più forte di altre persone, per dire quello che c'è Itiri l'altro giorno, come si chiama adesso, non mi ricordo chi era, arrivava più basso di lui, e Itiri a me mi arrivano 9,20 i segnali a bomba, proprio potenti, non dico come i vostri segnali tuoi di Claudio, però arrivano fortissimi. Mi sembra che ho sentito a Luca, o sbaglio, avanti Luca. Tu guarda, sto ascoltando. Cosa sei, a Roma di Atto? No, negativo. C'è freddo fuori, sono uscito un attimino. C'è freschetto, un po' di frascata la grande. Più che freddo c'è un po' di umidità, lo senti di più il coso, il freddo, perché la temperatura non è che sia bassissima, saremo sui 13-14 gradi, solo che sei tutto quanto infuso e tenta nelle ossa. Ti confermo. Sono passato vicino a casa tua oggi a accompagnare a uno, Luca. Ma c'è una pantellina, ti sei messa? Ho una rivista, vabbè. Ora sono un cammino a Roma 3 più grande. Non l'avevo mai vista. A me va sempre a un fianco, Purtroppo sì, come sono sceso, ho toccato la staffa scendendo. Ci ho messo un pezzo di legno, no? Al centro, in modo tale che rimanevo distanziate. Sicuramente come stanno scendendo una lì sono colpita, non sono accorto che è rimasta più dentro. Un pochino di più dentro, va. Avanti Domenico, se ci sei batti un colpo. Domenico, ma sono basso di ascolto. Avanti Sassari. Va bene, dai, ok. Che mi dà una controllazione che faccio qualcosa che non funziona bene. Santiago, nota picchi di nuovo, radio 3. Avanti Sandro. Ho capito. Va bene, allora già sta producendo. Sandro, me 9, lo sta dicendo anche a Falchetto, infatti mi sembra che arrivi uno lui. Santiago 9, radio 5 qua. Io confermo sempre. Santiago 1, radio basso, non lo sento però è basso. Non lo so, cosa potrebbe essere. No, vabbè, basso di modulazione, quello sì, non ho niente da dire, però il segnale è 9, mi sembra strano, che sei così negativo tu fa che. No, è proprio così, a me mi arriva così, mi segnalo di trasmettere. Uno, una e mezza, non di più. In mezzo al QRM proprio. Esatto, proprio in mezzo al QRM quando sta modulando. Oh, non lo so. Qua mi sono accorto, ma sto uscendo perché c'ho lo strumento, c'ho il modulatore, quindi mi sta segnando 60, tutto lì. Prima porto il nome e poi a parte che leggiamo un po'. Se vai a potere di sessione, però anche come c'è il segnale, la conferma da Domenico, quanto è che sta uscendo? Da parte mia, vabbè, siamo vicini pochissimo. Quanto sta arrivando il segnale, Sandro? Mi stai venendo giù Santiago 9, Rami 5. E tu fate? Vedo un po' a me, come ti arrivo io, Sandro? Tu mi stai arrivando a Santiago 7 a Radio 5. Allora, vedi, è strano il tempo. Tu Luca, Luca dovrebbe arrivare più forte di tutti. Vai, un po', sa, 1, 2, 3, ora. Ah, Luca, quasi 9, diciamo, 8 e mezzo, vai. Adesso aspetta, sono al minimo, dai, di qua. E poi ho segnale tuo, no? Ho picchi di 9. Ho capito, dai. Non lo so, magari in questione di umidità, capito? Questione di umidità. Bene, cappa. Facciamo riprendere a Domenico, prima lo perdiamo. Avanti, Domenico. È positivo. Positivo, riprendi tu l'ombra che c'è stato un break qua dentro. Non ho sentito il break, avanti chi vuole entrare. Sì, buonasera a tutti, ciao Roberto, ciao Antonio, ciao Domenico, ciao Luca e ciao agli altri che non ho sentito, che sono in frequenza. Capito da questa parte, riprendi Roberto. Sì, buonasera Gianni, anche a te, ben sentito. Avanti Luca e poi fa girare. Ciao Gianni, ben sentito, avanti un altro. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao Diago, ciao Domenico, buonasera, sono un po' calato di voce, anche a me l'umidità è più tratta, è ok. Stavo ascoltando che sei in viaggio, però ho aspettato a modulare, quindi adesso è così qua. Dove ti trovi esattamente, dove ti arrivo bene? Domenico già si fa sentire, c'è anche Sandro, vediamo se Sandro viene copiato da Muro. Avanti Sandro per Capri. Isma, riprendi tra Luca. Ehi, se non ci sta prendiamo una pizza, tutti chiusi le pizzerie, ma va l'angolo. Luca, sei pratico tu di coso, di YouTube? Insomma, perché? Non riesco a installare, cazzo, con l'officina l'ho fatto con questo computer per vedermi i video. Per vedermi i video, ma installarmi Adobe Reader. Ma mi faccio tutto quanto, la procedura non mi va avanti. O sto sbagliando qualcosa? Non ti capisco, ma Adobe? Adobe Reader, il programma per leggere i video su Facebook. Non Facebook, si chiama YouTube. Non riesco a installarlo. Non so cosa dirti, veramente, non so cosa dirti, affanco, c'è un vaso, a sto qua, affannato. È lavoro, è come lavoro, tutto a posto, è andato avanti, qua mi dice aggiungere la cosa aggiuntiva, lo faccio, e no, riprovo di nuovo tutto da capo, installa, fa congratulazione per l'installazione, vado a vedere il video e non me lo fa vedere. Roberto, guarda, sta chiamando Domenico. Cosa strana, che altri documenti documenti in PDF, io li apro, su quelle di YouTube non ci riesco, sembra che si blocchi qualcosa. Dopo riprovo di nuovo, faccio tutto quanto da capo. Ora, vediamo un pochettino. Ok, avanti Gianni Capri 2, facci sognare, avanti. Yeah. di un mezzo panino da Renato, mi ho preso poco fa, ci abbiamo diviso come a figlia, era una moto, non prendevo quei capriccio, non so se lo conosci, comunque sono molto pesanti, però sono buoni, ogni tanto ci vuole, dai, senza esagerare. Ci sei solo tu, ci bio, ce ne sono altri che modulano. Ogni tanto scompare Sandro. Avanti Sandro, ci sei? Ehi, guarda, dai. Dai, faccio un attimo le due ring che si ascolto che mi sto sistemando. Sono appena rientrato, mi sto sistemando, dai. Ti faccio vedere se ci siete ancora, ci sentiamo dopo, dai. Tutto in giro. Va bene, ok, dai, io rimango ancora un pochettino qua, poi devo fare cosa, faccio un po' di compagnia a Gianni e se mai ci sentiamo dopo, se coincide. Ok, avanti Gianni per Sandro. Allora, io lo lascio acceso fino a, diciamo, ora di andare a letto, e qui c'è tutte le mie riviste, che dove c'è che dico, hai capito, mi ho fatto proprio anche gli occhiali, così giusto per cambiare due chiacchiere, hai capito, quando tu bussa che io ho già trasferibile, non so niente, che sono la bagno, mi stavi dicendo, ci provo però a stare in contatto con questa persona e mi unico, però io gli avevo accennato del volume di quello di Radio Tecnica, però gli ho fatto lì e proprio accennato a quello, però ecco, le altre domande le formuliamo noi, però io poi ero in macchina, vabbè, non mi potevo dilungare, io anche c'era traffico, cioè io loro da dove formulano queste domande, no? Perché da quale testo formulano queste domande, perché lui mi ha detto che non c'era un manuale degli esami, ma io in queste cose che sono, cioè, i manuali degli esami ci sono, per esempio c'è un catalogo della Marcucci, ci sono tutti i libri per fare gli esami, e da dove non li formulano queste domande, da qualche testo sicuramente. Guarda, ti posso dire, l'unica domanda che ho trovato anche l'altro giorno, mi sembra, secondo me queste domande sono di internazionale, nel senso non vengono formulate soltanto in Italia, perché io ho circa il tipo, diciamo, oltre alle altre che ce ne avrò qualche altro migliaio, 1500, circa 500 domande fatte da un test di esame di radioamatori svizzero, del cantone svizzero di non so di dove cavolo era. E ti posso garantire almeno di 20 di queste domande che ho trovato in queste due sessioni d'esame sono precise, identiche, ma proprio anche nei valori, non dico come importanti, identiche nei valori, per cui queste le hanno prese da qualche parte, loro ci hanno una banca dati. A me è coso con la persona che abbiamo parlato stamattina, mi ha detto che le prende il computer, cioè hanno un computer dove ci sono circa 1000 domande che le aggiornano continuamente, tolgono via quelle vecchie per dire su valvole e cose del genere che non sono più in attivo, nel senso non vengono più considerate, oppure codice morso, cose del genere che ormai non si utilizzano più, in cui viaggiano continuamente. E la dimostrazione è quel fatto che ti ho detto dei dio di laser, che io in tutti i libri che ho non ne ho mai studiato e non ne ho mai visto. Infatti ho dovuto scaricarmi delle informazioni su internet. Comunque voglio chiamarlo, mi sono promesso, se non domani, a quella persona che abbiamo detto, domani lo voglio chiamare e gli voglio chiedere la risposta di quella domanda. Perché ancora, come oggi, ho dei dubbi io. Bisogna andare a fare per la figura, lo vedete. interessante. Infatti il problema di questo posto, allora ti ripeto, io sono andato all'esame, l'esame era alle 8, dovevo arrivare almeno alle 7 e mezza, per cui mi sono messo in cammino dalle 5, ero sveglio dalle 2 e mezza di notte, non sono riuscito a prendere sonno chissà per quale motivo, ero talmente assonnato, durante il viaggio mi stavo mezzo addormentando, ero proprio drumido, infatti ero con gli occhi molto, molto attenti, nel senso stando attento a non sbattermi, perché poi c'era un nebbione, quando c'è la nebbia che ti fai diversi chilometri con la nebbia, che non si vede niente, devi camminare al passo d'uomo, ero stanco molto, sono arrivato, ero con gli occhi mi si stavano chiudendo, per cui non sei sereno almeno a livello di memoria, diciamo le cose te le ricordi però non sei fresco, nel senso che ti direi, la risposta è questa e ci vai diretto. Io infatti due domande me le mangio le mani, probabilmente quelle domande avrebbero anche fatto passare come idoneità, le ho sbagliate così proprio per, secondo me, la stanchezza, no, perché prima momento le avevo messe giuste e poi dopo mi sono fatto impappinare quella del telefono, avevo scritto 300, idem quella dell'abbreviazione che avevo scritto ricevuto, voleva dire ricevuto, però alla fine chissà per quale motivo sono quelle altre risposte, e di lì quelle risposte erano sbagliate. E due punti alla fine ti danno la promozione. Di logica matematica, cioè cose che con l'elettronica c'entrano sì, però relativamente. Attenzione, ti riuni chiesto, ha detto, addirittura ha detto se erano pubblicate da qualche parte, dice lui ci sono circa un migliaio di domande, qualcuno mi ha detto sono 650, c'è possibilità, ma gli dico di vederle come sono impostate, te le studi, almeno quelle lì te le fai. No, sarebbe troppo facile così, non è un quiz di patente che tu ti studi tutti i test a memoria. E allora cosa devo studiare? L'enciclopedia dell'elettronica per sapere. Perché ti ho detto, io non sono una persona stupida, non mi reputo una persona super intelligente, sono una persona normale. Però, pur essendo una persona normale, mi sono documentato, ho studiato da diversi libri, proprio sul test d'esame, ho scaricato tante informazioni da internet, diverse enciclopedie, tante cose, mi sto continuamente aggiornando. E quando tu vedi che studi questa roba, più studi più ti rendi conto che ce n'è da studiare. Io le domande che ho trovato all'esame le ho fatte vedere anche dei radioamatori, sono rimasti a bocca aperta e dice questi sono scemi, non è possibile che ti mettano in condizione di rinunciare, perché dice ci rinuncia per sai che la domanda è così, io ti dico quando aspetto le domande la prima volta, non la seconda volta, perché la seconda volta me l'aspettavo. Stavo per prendere piede e ho detto io se ne andemmo, che era troppo allucinante la cosa, cioè non puoi formulare, io sapevo che erano sì domande, sì devi studiare, mi aspettavo domande normative, di cose del genere, non c'era niente, solo una domanda sulla normativa, secondo me le cose fondamentali, non mi interessa a me, le cose importanti sono sapere dove puoi andare, che tipo di potenza puoi utilizzare, cosa non puoi fare, le bande di frequenza, eccetera, eccetera, quelle sono le cose fondamentali, segnali di soccorso, ma di sapere che un amplificatore con 15 dB di guadagno ha la potenza di non so qualcosa, quelle sono cose troppo tecniche, le ho studiate, però secondo me ai fini pratici sono cose troppo tecniche, dovresti andare a una scuola, però scuole di, non di un anno, di diversi anni, per avere delle cognizioni così approfondite. Se uno diciamo deve studiare tutte quelle cose che riesce a studiare veramente, ci vuole tanto anche di chiudere patenti, non possiamo di chiudere patenti, io lo sto parlando, e aprire una roba del genere e diventerebbe anche una roba redditizia se uno riesce a prepararsi in quel campo lì, perché sono cose non essere più per usare un ricettario di titolo, ma cioè, una cosa che uno, io li ho sentito lì, quando ascolto le HS che si costruiscono questo, sono guarda, li ammiro queste persone, però non è per me a costruire un ricettario di titolo, a costruire queste cose, ho sentito che si costruiscono questo, per me quelli sono dei marziani quelli. Ma nonostante tutto io ti dico, ho amici, soprattutto un amico che è un genio sull'elettronica, è proprio un talento, nel senso che uno di quelli si mette, costruisce, fa, modifica, cioè ha delle cognizioni allucinate. Eppure mi ha detto, vabbè, io queste risposte, dove guardarmi le formule, che non me le ricordo, cioè lui ci va per intuito, nel senso ragionamento, c'era un circuito addirittura per dirti, che io quella domanda la sessione passata non ho risposto, mi ha detto, c'era, che tensione c'erano dei componenti e poi ti diceva, la tensione d'ingresso per dire è tale, e di uscita è tale, e indicare che tensione dovrebbe uscire con questi componenti, lui appena l'ha visto ha detto, no, ma guarda un po', questo circuito non può funzionare, perché con questo componente ti crea questo problema, con questo transistor, dice non c'è tensione, uscire. Ed era una domanda tra bocchetto, uno che sa l'elettronica se ne accorge, ma io come faccio a capire il funzionamento di un circuito elettronico se ho delle nozioni molto basilari, nel senso elementare? Però non c'ha la dimestichezza che ci aveva con Gustavo secondo me anche, non dico, a meno che non sei proprio una persona preparatissima, però se sei una preparazione così elevata, a quel punto chiedi l'esonero, perché sei un elettrotecnico, un radiotecnico, un ingegnere elettronico, solo a quel punto lì, però cosa ci vai a fare? Devi chiedere l'esonero. Io dico una persona normale, di preparazione normale, di cultura normale, è molto difficoltoso con l'esame. O sei fortunato come quello che c'era fianco a me, gliene ho passati io, poi le altre le ha messe a casaccio, non sapeva niente, con la fortuna sua è passato. È buon per lui, però ti sto dicendo, conta anche la fortuna, se non sei un tecnico qualificato. Quelli vanno, ma quelli non ne hanno neanche bisogno di andare perché chiedono l'esonero. Però parliamo di persone come me, come te, e come la maggioranza delle persone che parte dalla CB e lo fa come hobby. Era molto la fortuna, perché tu puoi studiare quanto vuoi, quelle domande che ti possono mettere possono esserci, non possono neanche esserci nel libro. Io ho la passione tantissima, io mi posso fare una connessione più unica, qui è molto, molto cremato, ma negli altri mi cambiavo i finali, nei primi baracchini, che ci avevo uscito a primo duato, me li saranno, però in questi poi ci fu addirittura, o come si chiama, una stazione per fare questi, una stazione di saldatura molto differente, e ci fu delle nozioni, non è a toccare, cioè a porre, è capito dove si è preparato, quindi già, se tu dicevo, c'ho molta passione, e ho letto molte riviste di elettronica, però non è per me a mettere le mani, come sento qualche volta che ascolto le cassette, io ho costruito quello, io è come loro, quello dicono, come che siamo tutto un bicchiere di Coca-Cola, no? E quindi sono persone valide che io sono tanto a loro, mi guardo, io sono per la terra, no? Hai capito? Però loro non possono, ne fanno un corso che a me mi serve solo per parlare di queste cose, non possono consultarsi a prepararsi a certi livelli. Non è una passeggiata come andare con loro l'altro giorno, però non deve essere neanche un esame di laurea, altrimenti come dice Nutrope non facciamo più il lavoro che facciamo, ma apriamo una bottega per imparare queste cose. Ma io gli ho detto anche, mi sono, non dico alterato, però gli ho detto, guardi ingegnere, guardi io faccio tutt'altro lavoro, lei è convinto che stia parlando con un tecnico, un ingegnere elettronico, io faccio tutt'altro lavoro, per cui per lei certe domande o certe cose sono scontate, per me assolutamente, lei mi può chiedere cose del mio lavoro, però io non ho mai avuto la presunzione di, anche nel mio lavoro, di mettermi al di sopra degli altri, quella persona lì è una grande persona presuntuosa, perché io dico ci sono anche modi e modi, si deve rendere conto anche di certe situazioni, no che ti mette ancora più in difficoltà, gli fai delle domande e anziché risponderti a modo ti dice in un modo molto ambiguo, molto presuntuoso, da, per cui non mi è piaciuto niente, mentre l'altro, quello che hai nominato tu, infatti ti volevo chiedere, ma tu lo conosci personalmente o solo così per informazioni telefoniche? Però per il suo interesse mi ha capito dato molto importante, perché ha visto che ero un grande appassionato di queste cose, però fa siccome ciò perché non di cui rimane subito e lì ci avevo messo dei biglietti e ci avevo detto come mi chiede qua la persona e poi mi ha dato la notizia, mi ha dato una persona gentile Pizzarisi, gentilissima, però secondo me dietro Pizzarisi ci sono altre persone. Sicuramente il direttore del circolo per forza è quello lì che comanda, quello è diciamo uno è comandante e l'altro è maresciallo in parole povere, detti in parole militaresche. Scusa un attimino, vediamo un po' su 10, non vorrei monopolizzare il canale, se c'è qualcuno, attenzione canale 10, chi vuole entrare avanti, non sento nessuno, avanti di nuovo già. Se me l'hanno detto, se voi mi hanno detto a me come si chiama i miei superiori, c'è ancora sono sempre in contatto, è capito anche uno di questi all'isola d'Elba, è un grande appassionato, non parla, però c'è un sacco di cose che il telefono della Roma Battaglione. E uno mi ha detto già, se vuoi, a essere con quelle, come si chiama, dice della Marina, a me, che è della telegrafia, e a parlare di un capo della Federazione, perché ho detto, se io devo andare, se conosco meglio, anche se c'è gente che lo fa questo discorso qua, meglio guadagnarsene le cose, che poi alla fine dei nemici due è il solito calci nel sedere. Io ho già la scuola, elementare e molte volte sono stato quando ero elementare che c'era quello più capo che faceva il compito per la scuola elementare. Io non ho fatto un tipo che era mai un po' volta messo all'acqua e lui non è farina del tuo sacco perché sa per quale capacità capita la nostra bisogna se no è capito per uscire da me è capito il più facile faccio io se mi fanno questa a Catentino che io mi metto tutte le antenne capito la direttiva il motore tutto che ha fatto a regolarsela cioè che arrivo a parlare con questi signori che sento la carezza che cosa dico io se sono un asino non dico niente anche quello vuol dire molto perché non bisogna sapere parlare degli argomenti che trattano loro però se uno una cosa vuol dire la regala no? E capito io non so se cosa dire fare la figura di uno scemo. Sì, vabbè, quello, diciamo io ti dico una cosa, sicuramente radioamatori, la maggioranza dei lavoratori ci sono persone molto preparate e qualificate, però c'è tanta gente, ho sentito che sarebbe bene che in quel tipo di cose non ci sta a far niente, nel senso ci sono anche di lì, ho sentito persone poco educate, rutti, parolacce, musica, sto dicendo tantissime volte l'ho sentito. Stai vedendo in certe situazioni è capitato che sembravamo peggio dei più giuri caffoni del mondo. Stiamo parlando di bande amatoriali. Qui ci sono radioamatori e radioamatori. Io li ho sentito tantissimi che rimanevo diverse, non dico ore, ma diversi minuti in ascolto per sentirli, proprio sentire certi discorsi perché erano persone veramente qualificate, erano dei tecnici, sentivi discorsi assolutamente interessanti. Mentre altre volte sentivo parlare di quello, sono andato a mangiarmi quello, ho preso quello, sono andato a caccia, ho preso i funghi, cioè cose che senti nella CB. Solo che quelli sono radioamatori. Non sto denigrando nessuno, però anche lì ho sentito persone che hanno la patente e non si so per quale motivo. Per cui basta, finito il discorso. Io 40 metri la settimana scorsa ho sentito che c'era gente addirittura che si disturbavano e per una volta ho sentito anche che ci sono litigati, non so per quale motivo, però anche lì capitano deve essere una frequenza diciamo non come la 27 è una frequenza tutelata con delle persone che devono essere come diciamo educazione o si ritengono per educate però con educazione devono essere anche superiore a noi perché prima di buttare certe parole che sento io uno ci pensa con una ci pensa di scimilato a lui purtroppo anche lì capitano queste cose questa settimana scorsa che c'erano delle lamentele che così disturbava qui là e dove erano le pirati e la gente hai capito dei colleghi loro li amatori e niente anche lì non è capitato questo però come stai dicendo tu io ho seguito di queste o anche che hanno fatto delle hanno preso dei fondi anche per questo radioamatore ha creato questa conto corrente per costruire non so che cosa mi sembra in Africa se non parlo errato ho ascoltato fino all'ultimo e hanno aderito parecchi radioamatori che la sede erano lì in frequenza e anche queste cose sono belle non solo di parlare di robe tecniche però anche queste cose sono belle perché nel periodo del terremoto sono la loro opera io ho preso queste cose però non diciamo quando torniamo al discorso io mi posso fare in quattro così per quello che stavo facendo di mettere dei soldi per aiutare però di queste robe tecniche che ho sentito per farlo che costruiscono robe non è per me non sarà mai per me. E vabbè, niente è detto, dai. Diciamo tutti abbiamo avuto un approccio iniziale, dai, chi più chi meno. Ok, aspetta un attimino, facciamo un attimino di bianco, vediamo su 10 se c'è entrato per sbaglio qualcuno, avanti 10 chi vuole entrare. Oggi stranamente c'è il QRM zero, proprio una giornata, vabbè, c'è un assorbimento di un allucinante, però zero, proprio dovrebbe esserci, cioè dovremmo sentire anche da lontano come. Poi ho qui, ma l'ancheta non ce l'ha, perché le sacche, usando la lancetta sotto il cuscio, tipo il piccolino, non c'è, ha detto che funziona tanto benissimo, però fammelo se nella vetrinetta lì tutta quanta, a forza, tutta, ogni tanto la lancetta è rosa, è spettato, posso durare 5-6, non so perché io sono fatto così. Seduta, se sono all'esame, ha chiesto: ma come mai non fate dei corsi vostri interni anche a pagamento? Chi ci vuole andare? Almeno per agevolare e dare un'informazione, non dico un'infarinatura, diciamo, a chi si vuole avvicinare a questo mondo qua della diamaturi. Purtroppo no, non possiamo fare niente. Allora, sembra sta diventando, tra l'altro, questi signori esaminatori, una casta, delle persone, come si chiama, che sembra quando tu vai, cosa ti posso dire, ma neanche notai, perché forse notai non penso ci sia questa presunzione, entri lì dentro, sembra che stai entrando nella Banca d'Italia, nel cavò dove ci sono nascosti i tesori della corona di regina Elisabetta, talmente, sembra una cosa talmente complicata entrare. Stiamo parlando di una patente di radioamatore, non stiamo parlando di un porto d'aria, oppure di una guida di un aereo o di qualcosa dove ci sono dei rischi superiori. Che danni puoi fare tu mandando una portante, cose di subire l'aereo, levare l'aereo? Non penso che sia così imbecille, nessuno lo fa, a parte che ti arrestano immediatamente se si scopre un problema del genere, altrimenti a dire parolacce e cose. Cioè danni fisici non, quasi niente rispetto a che danno può fare uno che si prende un porto d'arma e spara una persona con la pistola. Perché poi devo anche tenere presente, devo tenere conto, se sono quelli fiscali, hai capito, si non ci saranno più, quando gli altri radio con una certa età, allora non ci saranno più radio amatori, perché non è facile, capito, portare una radio, però come stai dicendo tu, non farti a giocare la schedina molte volte, così sei perdenza. Conoscere squadra, senza cosa, perché sono proprio quelli che vincono, come hai detto tu, con tipo che ce l'ha lì, e sono contento anche di quello che mi hai detto, hai capito? Sarà una persona felice se l'avrei fatto al suo intento, alle sue passioni, però diciamo un minimo di cultura, no, le mie avere tutto sì, un minimo di cultura, ma non è che ci ha fatto la parola, perché io ti ho detto, c'è tutt'altro, radiotecnica per radioamatori, sì, subito mi ha dato l'ok, mi ha detto che era un testo valido, però io ho detto ci sono, ho detto anche i testi per l'esame, lì non ha portato. Ma la non mi accumulate, tanto già avete qualche testo, qualche cosa che possiamo studiare, perché non lo so, che non me lo venerete, se io studio per esempio da un testo, per esempio uno figlia del come si chiama da un altro, anche se riguarda lo stesso, la stessa cosa, quanto pare secondo come vengono impostate uno, non è attesa una. Ma la cosa bella di queste domande, lo sai che cosa è? Allora, c'è una domanda giusta, diciamo, se la sai che è giusta, non c'è da sbagliare, sei preparato, la sai. Poi c'è una domanda dubbia, nel senso molto equivoca, nel senso che ti può far venire molti dubbi, e poi c'è una sbagliata, e quella te ne accorgi subito di quella sbagliata. Il problema è che ti mettono questa seconda domanda, che te la fanno apposta per farti venire i complessi, nel senso, ma non è che sia quella o quell'altra, cioè per dire, c'era una domanda l'altro giorno su la velocità di trasmissione delle trasmissioni digitali. La velocità di trasmissione si indica in bit al secondo, e poi ti mettono una risposta bit fratto secondo o bit per secondo. Cazzo, a quel punto ti vengono i dubbi. Allora infatti ti ho detto, ma bit al secondo dovrebbe essere tipo chilometri orari, chilometri fratto ora. E lui ti risponde a questo signore qua, questo ingegnere, ma come lei non le sa queste cose? Cioè, ti fa dire che è ancora più in difficoltà, e metti una risposta per dire sono bit al secondo, la risposta invece ti mettono bit fratto secondo o bit per secondo, allora devi cazzo, dici, ah, che cos'è? Però mi hai pensato che potevano essere due risposte molto simili, e alla fine ti vengono i dubbi. Thank you. 6 a K. No, ti ascolta, c'è Santiago di 4, anche lui si è meravigliato, ti ha preso, sta usando un piccolo alla 78, mi sta dicendo, sta uscendo con 4 watt la potenza dell'apparato, ti ascolta comunque Sandro, talmente tu non riesci a sentire a lui. Mi conto che per fortuna stasera non c'è QRM e a lui sento la sua portanza, Santiago 1. Se fosse in cuffia potrei anche riuscire a distinguere qualcosa, ma no, mio malgrado purtroppo è difficile per me tirarlo fuori. Ah, hai sentito Gianni? Ho sentito benissimo che andiamo a Santiago 1, che la radio è difficile per me fuori. No, io lo ascolto benissimo. Ed è, cioè, non so se riesco ancora, ma sotto c'è da mettere un chiodo nel muro, vabbè, perché io da Alghero, da casa, non sono riuscito mai ad ascoltare a nessuno perché c'ho quella montagna dietro, vabbè, è una cosa allucinante, non sono riuscito, perché prima stavo con un albero ormai, non so se stai quello che vuole, però io hai capito il negativo almeno per quella qui. Ti faccio da tramite, Sandro mi sta dicendo, lui ti ascolta bene, dice la prima volta che è riuscito a sentire Alghero, perché mai, vabbè, c'era di oggi una giornata particolare, QRM è vero, e dice se ti sta aiutando o se sta uscendo con potenza dell'apparato. No, vabbè, io un aiutino ce l'ho, lo faccio apposta per consumarle queste valvole qua, perché se non si usa non si consumano, no? Naturalmente. Ok, vabbè, Cassi, guarda se puoi fare qualcosa tu naturalmente per farti sentire, perché lui riesce a percepirti, nel senso non riesce però a capire quello che dici, sente lo smite che si muove, vede, anzi non sente, qualche cosa di modulazione però non riesce a capire. Puoi fare qualcosa tu, così siamo a tre, un circuito da tre interlocutori, dai. No, ma posso fare tu, perché non c'è proprio niente, quella roba che ha non l'ho portata via. Portata in garage, non c'ho più aiutini, già avevo solo l'apparecchio e già preso anche quello in pezzine, ma a questo punto sono circondato dalle riviste, dall'alimentazione enorme, basta, non c'ho altro e non attaccherò altro, anzi c'è un altro apparecchio che devo mettermi a posto, che è molto bello, 40 canali, che si chiama mobile, per lavorare ci vuole transistor di RF, però guarda, c'è un'ottima ricezione quella, c'è neanche il frequentimetro di questo, però è sempre la mattina poco, me l'ho messo lì, ho detto il giorno che trovo Massimiliano me lo faccio mettere a posto, e così, ma mi piace anche questo piccolino, vabbè. Non posso attaccare nulla, davvero, sinceramente, perché proprio voglio andare normale con la apprezzatura, so bene così, ogni tanto mi giro, riguardo la vetrinetta, riprendi. Cazzo, vabbè, dai, cerco di fare da tramite io, uno per l'altro, dai. Tu vai, ascolti a lui e io riferisco quello che hai detto tu. Ok, avanti Sandro, di nuovo, racconta. Ma anche voi in questi giorni siete accorti che c'è una portante con un disturbo assurdo che si sposta di frequenza in frequenza? E proprio sono dei momenti che anche qua su 10 si tira su una portante rumorosissima, sentiamo 8, 10, 2, fuori in testa. No, vabbè, ultimamente questa settimana non stavo tanto bene, ero mezzo pizzicato dall'influenza, non dico influenza, un raffreddore molto brutto, sono stato 3 o 4 giorni che non entravo, forse anche di più. E l'altro giorno mi è capitato, stavo un po' sovramodulando a Benito, ho sentito qualcuno mandava una portante, però era dedita a lui, però un disturbo fisso non mi sembra. Tu parli di un disturbo fisso o di qualcosa che si sposta? È un qualcosa che si sposta, no? Non è creato da un utente standard, ma l'abbiamo confermato con Claudio, perché dicevo c'è un disturbo in zona, non si sente bene, mi ha detto no, c'è anche qua, infatti ci siamo spostati, in quel momento era su 10, era una portante oscillante che faceva un rumore digitale sottofondo, e a un certo punto l'ha sentito su 17, poi su 18, poi si sposta su 12, poi durante il giorno si sposta su 10, su 8, su 7, oscilla. E ho notato che addirittura ha anche delle armoniche. E quindi niente, è diventato un po' una cosa impossibile. Per esempio adesso ogni tanto mi arriva un po' di abbattimento, mentre mi arrivava adesso di abbattimento riuscivo quasi a sentire a K2, giusto? Sì, K. Sì, per un attimo avevo anche l'impressione di sentirlo perché questo leggero abbattimento, che ho un paio di canali più su da parte che sto portando in tramba, c'è, sparisce. affittato per diversi mesi consecutivi un segnale fisso a fondo scala, diciamo non proprio a fondo scala ma a 9,40 vicino qua probabilmente, 26,200 fisso, portante muta fisso 24 ore su 24. Non sono riuscito a capire che cosa potesse essere, perché su quella banda di frequenza normalmente non c'è niente, diciamo sono frequenze libere. Ho pensato qualche centralina d'allarme, cosa dire, però il segnale era molto forte, costante. Poi è scomparso per qualche giorno, poi è ritornato, però le centraline d'allarme a 26,200 mi risulta, io ho le tabelle, non c'è niente su quella banda di frequenza. Saranno gli alieni che stanno facendo le prove di saturazione frequenza? Avvio, sono i cinesi che stanno provando a entrare qua a Sassari, perché quelli usano potenze di megawatt. Ogni tanto, non so se ti capita di andare su, come si chiama, in bande broadcasting, in bassa a bassa, senti i segnali 960, cioè nel mondo non c'è una stazione che arriva con quei segnali lì, e loro arrivano dalla Cina con queste potenze allucinanti, canale Cina International, quel canale che parla anche in inglese, anche in italiano, capita, a certe ore del giorno parlano anche in italiano, a certe ore della settimana, io ho tutte le bande di frequenza e ci sono questi segnali cinesi, da paura, non so quanti megawatt ci hanno di potenza, cioè gli altri normalmente qua lavorano con 500.000 watt, lì stiamo parlando di milioni di watt, non so se sono 20 megawatt, potenze fuori dal mondo, non ho mai capito per quale motivo che necessitano di usare queste potenze, figurati cosa succede di problemi di, noi ci parliamo di elettromagnetismo, di segnali di cellulare che disturbano il cervello, chissà cosa succede in quell'arco di centinaia di chilometri dove ci sono le antenne. Almeno ti capisci perché mangiano pollo, perché la cucinata al microonde stanno direttamente ruspante. Già lo so, guarda io stavo seguendo, scusami capi se stavo passando ping pong, ho seguito una trasmissione alla televisione, non so se ti è mai capitato di seguire Voyager. Sì, certo, mi piace. Ho seguito, me la sono rivista tra l'altro perché non l'avevo vista dall'inizio, e in America, non America scusa, l'America e la Russia nel Polo Nord hanno piazzato una stazione di trasmissione militare, non so che potenze utilizzino perché sono potenze fuori dal mondo, su frequenze mi pare, non so se ho sentito 50 Hz o 20 Hz, potenze allucinanti e a frequenze ultra basse. Queste cose sono in grado di generare temporali, cioè cambiamenti meteorologici, addirittura dalle potenze che utilizzano. Ti cambiano cioè, la configurazione del paesaggio, delle nuvole, cioè ti creano la pioggia, cose allucinanti. Ti possono creare dei scompensi anche, dico, qualcuno dice che questi terremoti, queste cose che succedono, esplosioni vulcaniche sono dovute a questo fatto qua. Sta di fatto che sono potenze da paura su frequenze molto basse, cioè tipo non so se erano i 20 o i 50 Hz, sono delle cose sperimentali. Dicono queste cose, tutti questi problemi di cambiamenti climatici, qualcuno dice che è dovuto a questo fatto qua, a questi esperimenti militari che stanno sviluppando gli americani e i russi. Grazie, buona. Guarda, per il discorso di queste teorie stanno pensando di fantasia, passerà un pochino di fantasia e lo troviamo, lo troviamo tutti quanti queste cose. E Giovanni cosa ne pensa quanto tempo a questo settore? Giovanni, perché chi è Giovanni? No, Giovanni, Gianni? Gianni, no, pensavo ci fosse Giovanni Alanghiero, c'era un tempo fa. Hai capito il discorso? Gianni, se vuoi ripetere, così poi faccio la tramite io. Non penso che queste cose possono essere vere, perché succede che creano questi cambiamenti di clima e tutte quelle cose che infatti da quando hanno fatto tutti gli esperimenti che vanno sulla Luna, tante cose non funzionano più come prima e se notate anche le stagioni non sono più quelle di una volta, la primavera io come quando ero bambino non l'ho più visto. E si Sì, infatti sta confermando anche lui, Sandro, quello che ho detto io, diciamo tutto è possibile. E sicuramente i militari non guardano in faccia a nessuno, se devono fare degli esperimenti come l'hanno fatto con gli ordini nucleari non se ne frega altamente della popolazione. Io sono abbastanza appassionato di queste cose, diciamo anche un po' a fantascientifiche per certi versi, però io ho anche riviste le letture specializzate dove ci sono dei fatti realmente accaduti e dimostrati. Non so se vi ricordate di quel scienziato che poi è morto, quello Tesla che faceva gli esperimenti con i fulmini e cose del genere, quelli sono fatti realmente accaduti. Non si è mai capito che fine abbiano fatto tutti i suoi appunti, siccome questo qualcosa aveva scritto, non molto perché era un grandissimo personaggio, nel senso ci teneva tutto quello che faceva, lo teneva in un posto sicuro, la sua mente, non lo diceva nessuno, però qualche appunto c'era. Sono scomparse queste cose, parte di queste cose, poi lui non so che fine abbia fatto, tutto il suo laboratorio è stato sequestrato, è secretato, eccetera, eccetera, per cui molte cose neanche ci immaginiamo, come non si sa tutto questo discorso della famosa Area 51, che qualcuno dice è fantascienza, però io qualcosa di realtà sicuramente c'è. E capa, non mi ricordo, avevo visto lo speciale di Tesla, ho visto i suoi studi, tutte le cose, e più o meno le teorie su come l'abbiamo fatto fuori per i brevetti, però ho già scoperto le onde radio molto prima di chi ha invece depositato quella che era l'invenzione, e che non faceva comodo, perché non voleva condividere, non voleva avere a che fare con il discorso militare e altre cose, invece altri sì, e ci hanno messo poco a farlo salire, però vabbè, tutte teorie purtroppo non possono provarlo e quindi è stata bene, no? Sì, sicuramente, infatti Tesla, noi ci vantiamo tanto Marconi, però tutte le opere, diciamo tutti gli ingegni, le cose sulle onde elettromagnetiche le ha scoperte lui, è stato il primo, poi Marconi le ha diciamo perfezionate per certi versi, diciamo ce le ha aggiustate, anche se lui è stato il primo che ha fatto i primi esperimenti sulle onde propagazione delle onde, le ha fatti lui, eccetera, eccetera. Le prime linee a corrente alternata elettriche le ha fatte lui, all'inizio c'erano dei monopoli, non so se è stata tutta la storia, se è seguita la trasmissione, prima in America era tutta a corrente continua, perché c'era il monopolio della Edison, eccetera, eccetera, tutto per questione di soldi, alla fine si è scoperto che la corrente alternata è molto più conveniente, meno dispendioso dal punto di vista energetico, per cui alla fine hanno dovuto cedere alle sue teorie. Così molte cose noi non le sappiamo, dai, lasciamo perdere. Ok, scusa per l'intrattenimento, Capri, vanti tu e partecipi delle tue opinioni, dai. Sì, quello di Marconi, come stava dicendo il suo, ha avuto anche delle difficoltà e diciamo queste cose si è andato a creare, perché la gente era molto scettica e anche c'era un'invidia anche da parte dei colleghi suoi, quindi anche degli scarsi finanziamenti, ed è stato proprio una persona che non è stata premiata, diciamo, proprio come doveva essere premiata. Anche se poi questi qui riconoscono quando sono morti, però ha avuto anche come si chiama una battaglia con una compagnia telegrafica, che allora la roba lavorava a quegli anni, in poche parole, con la sua invenzione. Un attimo. Mare, cose folle, si sono sentiti anche minacciati da questa sua invenzione, quindi capito, non era tanto benvenuto, poi invece è stato appoggiato da, come si chiama, dal Canada, e ha ripreso questi esperimenti e li ha rifatto a fare quello, ha fatto quella prova anche, cioè quell'esperimento che ha fatto accendere queste luci Australia, da Genova, non so se Robe siete al corrente di questa roba, presumo sì. Infatti sì, sono abbastanza corretta. Aspettatemi, non c'è stato qualcuno che ha mandato portante avanti, chi vuole entrare? Avanti. Tu, è arrivato un segnale 9.30 qua, mentre stavi parlando, capito, qualcuno erroneamente, pensiamo, dai, pensiamo al bene, probabilmente erroneamente ha schiacciato il portale. Ok, chiarissimo il discorso, capito, ma ci sono tante cose, tante, anche attualmente, che noi neanche ci immaginiamo, cose a livello motoristico che stanno bloccando, perché non è conveniente alle grosse multinazionali perdere il petrolio, per cui bloccano le innovazioni a livello di motori, perché adesso sono motori elettrici, hanno dei rendimenti, è presente, il rendimento di motore a scoppio stiamo parlando del 30%, motori elettrici stiamo parlando di rendimenti intorno al 95%, per cui c'è un abisso come rendimento, come peso, eccetera eccetera, e li stanno bloccando perché c'è dietro troppa gente, troppi soldi. I sistemi climatizzatori, ci sono sistemi molto più efficaci e più evoluti e meno dispendiosi, sono stati bloccati, e ci sono tantissime altre cose, come per dire le lampadine, che adesso piano piano stanno prendendo piede, quelle LED, però prima delle LED ci sono quelle a basso consumo, però le LED hanno un potenziale enorme, però le stanno un po' rallentando. Ci sono tante cose, come ho detto prima, che fino a quando non ci sarà il momento giusto ce le vedremo in ritardo rispetto a quanto potrebbero essere in anticipo volendo. Ok, cosa dici tu, Sandra, avanti, il tuo parere? Vabbè, io lì già la vedo molto, perché vabbè, la tecnologia mi piace tutte le cose, il fatto del motore ibrido, il fatto del prossimo scooter che avrò per lavoro, per hobby, sarà sicuramente elettrico, il fatto che mi piace l'energia solare, il fatto queste lampadine a basso consumo energetico, che secondo me vabbè sono una mezza boiata, e la tecnologia LED è scoperta già da un giorno. Io la sto sfruttando molto, la tecnologia LED alta luminosità, mi sono attrezzato con i kit, sto facendo delle cose molto carine, e sono pienamente d'accordo. Se venga rallentato, perché il petrolio che non finirà, la gente lo vogliono sfruttare, perché il petrolio sta ancora pagando dei rischi di guerra, invece tutto ciò che energia pulita non pagherebbe, no? Allora dove dovrebbero togliere i soldi dei debiti loro? Beh, io stavo sentendo una trasmissione, c'è un brevetto italiano di batteria, per dirti, vi faccio un esempio semplice, c'è una resa questa batteria, un kilowatt a chilo, non so se ti rendi conto della potenza, un kilowatt, stiamo parlando, la batteria a litio, stiamo parlando di 0,1 a chilo di potenza, qua stiamo parlando di 100, come si chiama, di 1000 volte tanto, un brevetto italiano, non so che fine abbia fatto questo brevetto, ne ho sentito parlare alla televisione tempo fa, qualche mese fa, una cosa, sembrava una cosa rivoluzionaria, l'hanno fatto vedere funzionanti eccetera eccetera, con questo sistema di azolfo, funzionava con dello azolfo, per cui anche noi in Italia saremo grandi produttori, visto che di azolfo ce n'è in abbondanza, non se ne è più sentito parlare, non ho capito se qualcuno gliel'abbia comprato il brevetto e tenuto fermo, conservato per non danneggiare grosse multinazionali. Vabbè, se permetti, anche il discorso dell'ausilio dell'idrogeno creato così con delle celle anche artigianali per compensare quello che è la carenza del comburente ossigeno contenuto nell'aria, puoi migliorare aggiungendo delle particelle di idrogeno fatte con delle celle acqua e cos'è, fluoro di sodio, quindi no, Dio, è male, alla fine è male e niente. Se passa uno in realtà si fa il visto, però niente, lo risolvono subito. Appena hanno fatto la prima macchina, come hai detto tu, che andava ad acqua, cosa hanno fatto? La Fiat mi pare che aveva fatto una macchina che l'ultimo si è fatto il grado, poi aveva le celle per creare l'idrogeno, lo buttala via, solo gira dal mercato. Sì, infatti non lo serve anche il problema, c'è un indotto dietro il motore a scoppio, te la dico una cosa molto semplice, scusami capri se sarò troppo interessato, questi argomenti mi interessano. Allora, in America, non so se l'avete mai notato voi, chiedo conferma prima a capri, i camion, i mezzi pesanti, li avete visti come sono fatti i camion americani? Sì, certo, tutto muso e marmettoni dietro la cabina, tutti i mezzi dietro di noi. E hai capito capri con la domanda? Sì, mi riferisco agli autocarri americani, quelli con il muso, diciamo, però c'è un altro che vuole adeguare, lo direi tu. Lo sapete per quale motivo sono ancora così. Tu quando li guardi sembrano vecchi camion anni 70, c'è un motivo specifico, lo sapete? No, così sui piedi no. Allora, c'è una cosa molto semplice, niente di complicato. Allora, in America funziona così. Allora, tu ti prendi un mezzo, ti compri il radiatore, il propulsore, il camion, la gabbina, sono tutte cose standardizzate. Cioè, tu ti compri, ti posso dire, un contenitore. In questo contenitore standard ci devi far stare il radiatore. Il radiatore te lo producono 3 o 4 marchi. Le dimensioni standard del radiatore sono quelle e ce le infili dentro. Per dire, io voglio un camion della General Motors con la gabbina della Fiat, per dire, fate un esempio. Voglio il radiatore della Valeo, il motore lo voglio della, come si chiama, quello che ti piace, della Cummins o della MTU o quello che vuoi tu, il cambio lo voglio della ZF, l'impianto frenante, ti fanno una standard di dimensioni, quella è la dimensione standard e ci metti quello che vuoi tu. Mentre al contrario noi abbiamo tecnologie, vabbè, molto più avveniristiche, le gabbine sono, ogni produttore ha la sua gabbina, c'ha il suo cambio, il suo, vabbè, anche c'è anche i cambi, molte volte nei cambi sono, nei mezzi industriali sono abbastanza, sono due o tre lo stesso dei marchi che li costruiscono. E la situazione funziona così, per quello, e quello è un blocco, un senso di restrittivo secondo me alla tecnologia, allo sviluppo tecnologico, perché loro devono costruire dentro quella scatola, ci devono stare per forza con le cose lì, mentre in Italia, diciamo in Europa, noi siamo un pochettino più avvantaggiati da quel punto di vista. Idem era il periodo dei telefonini, non so se voi vi ricordate, delle radio, parliamo delle radio, i messaggi in America, mi sembra che ci siano 4-5 anni i messaggini nel telefono, noi abbiamo una tecnologia che siamo avanti almeno di 5-6 anni sulla telefonia, non parliamo della radio, parliamo radio private, l'RDS da noi è uscito negli anni 90, di lì mi sembra è uscito 7-8 anni fa, non di più, per cui per certi mesi siamo all'avanguardia rispetto a loro, per altre cose siamo molto più arretrati. Come? Che sei davvero? Non sto scherzando, io sto parlando su certi tipi di cose, perché sono bloccati. Allora, l'RDS sembra una cosa fessa, nel senso, però dietro l'RDS ci sono tante cose dietro, ci sono delle industrie che producono quel sistema di decodifica, eccetera, eccetera. In America, da certi punti di vista, sono molto conservativi. E così nel discorso dell'automobilismo. Tu sei inutile, le macchine americane, adesso un po' con la Fiat si stanno svegliando quando ha acquistato la Chrysler, stanno iniziando già a mettere i motori, prima erano tutti motori vuoti, in America cilindrata da 4.000 in su, non ne trovavi motori, e stanno iniziando a guardare, riduzione della cilindrata, riduzione del numero dei cilindri, riduzione di tante cose, dei consumi, riduzione della, come si chiama, delle emissioni di gas di scarico, tante cose. Per certi versi gli americani, pur avendo delle tecnologie ultra superiori alle nostre, per certi versi naturalmente, però per certi altri versi sono molto più arretrati, te lo dimostra la tecnologia automobilistica, noi siamo leader mondiali, almeno in Europa non abbiamo uguali, e anche l'Italia da certi punti di vista è leader mondiale per certe cose, parliamo motoristiche, parliamo. Gli americani sono dovuti entrare in Europa per cercare di migliorare, hanno dovuto acquistare dei brevetti dall'Europa. E così ci sono dei discorsi anche a livello di punto di vista, parliamo di telefonia e di radiofonia. Ok, riprendi Sandro. Va bene, sì, è lì perché sono cominciato a fare sentire anche loro della valuta del petrolio, prima usciva una gallone, e adesso che il petrolio è salito anche per loro, quindi hanno dovuto per forza ridurre le cilindrate delle macchine, perché sennò si mangiava un tutto. Sì, stavo sentendo prima un mio discorso, mi è rimasto nel cuore l'esame della patente radiomateriale, e io me la... Mi sto mangiando le mani, sono andato a caricare quella documentazione che mi è detto qua. Quello della Svizzera l'hai preso? Come? Quello della Svizzera, guarda, se ti vuoi rendere conto della difficoltà, non guardare quelli, diciamo, degli ari, quelle sono domande semplicissime e diciamo sono abbastanza appetibili, nel senso le puoi rispondere. Se tu vuoi vedere la difficoltà, a che punto arriva la difficoltà di un esame di radioamatore, guardati, scaricati quello della Svizzera e ti rendi conto cosa vuol dire entrare in quel discorso lì. Sono così gli esami che, come quello che così, guarda, io ti faccio, io ho un esoconto delle domande, guarda, ti dico una cosa, guarda, Allora, questa è una domanda al volo. Quanto è il fattore di qualità Q ad una frequenza di 1500 kHz se l'induttanza è 0,2 microhenry e la resistenza di 5 ohm? Questa per dirti una domanda semplice. Poi ci sono quelle un pochettino più particolari. Aspetta, la capacità ci viene applicata una corrente alternata di 175 mV ad una frequenza di 18,68. La corrente è di 1 ampere. Stabilire, aspetta, adesso non mi ricordo cos'era la risposta. Vabbè, te l'ho detta velocissimamente, ma domande a quei livelli lì. Cavolo. Cavolo. Cioè, tutte così oppure una maggioranza? Tutte così, guarda questa, la banda passante di un circuito risonante, 0.3 dB, è situata tra 6,9 e 7,3 MHz, quanto è il fattore di qualità? Risposta io l'ho indovinata, però poi devi sapere anche certe cose, ti ricordare anche delle forme. Poi c'erano le domande fesse, uno statuto primario viene identificato come lettera, maiuscola o minuscola, c'erano le risposte, oppure nell'alfabeto fonetico cosa voleva dire Mike Tango, ma quelle sono fesserie. E poi quanto, vabbè questa la sapevo, era facilissima, per quanto tempo un amplificatore in classe A circola la corrente, quella era facile. Poi ti metto una domanda del genere, l'impedenza di un cavo bipolare del pilota telefonico ideale indicare l'impedenza di questo caso qui. Tre risposte, 300, 600 e 50. Io ancora non ho capito, credo che la risposta esatta sia 300. Noi abbiamo messo tutti 600 perché un fesso ha sparso la voce all'esame, però in un primo momento io stavo mettendo 300. Ho chiesto a un tecnico della Telecom che si occupa proprio di centraline telefoniche, mi ha detto questa risposta non si può formulare perché dipende dal cavo, dipende da tante altre cose, casi ce ne sono di diverse impedenze, eccetera eccetera, per dirti che domande fa. Perché lì parla di condizione ideale, ma com'è possibile portarsi via la lista delle domande che ti hanno fatto? No, assolutamente no, addirittura neanche la minuta, niente, non puoi scrivere neanche un pezzo di carta tuo, devi chiedere, la carta timbrata da loro, io me le ho memorizzate, cioè me le ricordavo e me le ho riscritte a memoria, però me ne sono memorizzato 22 su 30, qualcuno non me la ricordava esattamente, ma se c'è modo, aspetta, scusa, te lo dico al volo. Vabbè, io faccio la domanda poi tu mi faccio la risposta. E tu Capri, l'idea di andare a fare l'esame radiomateriale è una cosa che ti interessa, sei dentro il settore per poter fare questo tipo di quesiti o cose varie? Io sono 38 anni che sono un tabacchino di Arturo Bella, 72, e quindi certo mi piacerebbe, però infatti a queste cose, come dice Roberto, con questi, diciamo, come posso sostituire, quando non riesco a uscire con queste domande difficili, proprio io penso che non ci riesca e lì glielo ho lasciato. Non so se hai capito quello che stai dicendo, comunque ha detto che c'era molto di più. Guarda, un'altra domanda adesso, ti dico Sandro, guarda questo. Un amplificatore HF con transistor ad effetto campo, FET, parentesi, ha un'impedenza di entrata di 0,75 mega-ohm, l'impedenza dell'antenna di 75 ohm. Quante spine deve avere la bombina d'antenna tra la bombina gate a 300 spine? Calcolare senza perdite. 30? Sto dicendo, sono domande assurde, guarda qui questa c'era la domanda, come si comporta l'intensità di campo magnetico in una bobina bifilare se avviene una variazione di corrente di 1,8 ampere in 200 millisecondi? La risposta è questa qua, una bobina bifilare non genera alcun campo magnetico verso l'esterno e nessun cambiamento. Cioè, la domanda è che, per dire, nel libro non te le trovi queste domande qua, ti dice, se dovresti studiare l'elettromagnetismo e ti dice, attenzione, se tu ci metti due fili in una bobina non si genera alcun campo magnetico. Cavolo, è terribile. Senti questa io ho le sole risposte, però attenzione qua. La distanza tra due radioamatori è di 50 km, entrambi ricevono il segnale dall'altra stazione con una tensione d'antenna di 60 microvolt a 50 ohm di impedenza. Quanto è la tensione d'antenna se riceveranno le due stazioni se la distanza aumenta di 75 km? Senza attrezzatura nessuna riflessione. C'è anche domande del genere. Sì. Oh, porco cane. alternative, sarà bene, che parte da 50 km e viene aumentata di 75. E 75, esiste un calcolo matematico, ma ci sono tante formule. Io queste formule alla fine non so cosa ho fatto, siccome ce ne ho, non dico centinaia, ma almeno una quarantina di formule, io me le sono scritte in un bigliettino, ho detto non si sa mai, se mi capita qualcuna di queste formule vado e come si chiama, mi allontano un attimino e cerco di memorizzare, perché le principali le sai, cioè te le memorizzi, anche quelle dei decibel, per dire quanti decibel, perché i decibel a seconda della tensione o a seconda della corrente, scusa, a seconda della come si chiama, della potenza sono tale valore, se tu stai parlando di correnti e di tensione devi corrispondere ad altri fattori moltiplicatori. Aspetta, ti faccio un'altra domanda, leggi qua, aspetta, tanto per dirtene qualcuna, questa è facile, ce la sai. Allora, uno strumento di misura, tra l'altro a 6 dB, per ogni gradazione S di un ricevitore, indica un segnale di 19, a quale fattore occorre, di quale fattore occorre circa ridurre la potenza del segnale per ottenere SC? Tu a quanti, lo sai ogni punto S a quanti dB di guadagno corrisponde? Oddio, io so che per ogni punto S, cos'è? 2? No, ogni punto S corrisponde a 3 dB di guadagno. Se tu parti da 7, S7, parliamo del segnale, Santiago 7, a Santiago 8 c'hai 3 punti, 3 dB di guadagno. 3 dB di guadagno sono il doppio della potenza in antenna. Per cui devi fare il calcolo dei logaritmi, c'è cose del genere. Guarda, ci vuole anche un po' di, diciamo, non li puoi fare a mano questi conti, ci vuole una calcolatrice scientifica oppure le tabelle logaritmi. Io queste cose me le mangiavo perché era la mia passione, i guadagni, le cose, l'amplificazione. Non te ne capita da una di quelle domande lì. Oppure, aspetta, te ne faccio un'altra, veloce veloce. È terribile. Eh sì, devi saperle di base, ci sono delle cose che devi sapere e basta. Sì, ma è talmente vasto l'argomento, oppure dico cos'è la caduta di tensione, cos'è la distorsione armonica, e ci sono delle risposte, una che non c'entra niente, per completamente sballata, l'altra è giusta, l'altra un po' dubbiosa, e lì ti mettono in difficoltà, oppure quanto è lo sfasamento tra corrente e tensione in una bobina di aria, queste cose le hanno messo le domande. Poi ti sto dicendo, leggiti questo dei radioamatori, pigliati l'appunto, questionario radioamatori e Svizzera. Ufficio Federale delle Comunicazioni, UFUCOM si chiama, e questo qui l'ho scaricato da internet e ci sono intorno alle 400 domande. Cavolaccio, questo questionario radioamatori esiste. Io l'altro giorno quando mi avevi detto cercare il questionario così l'ho cercato, ho trovato qualcosa su internet del mercato Svizzera, cioè che alla fine era da lì. Aspetta che provo a cercarlo, lo faccio un secondo di piano che vi do un'occhiata. Certo, cerca questionario per radioamatori. Aspetta, l'avevo scritto, l'ho scritto da qualche parte che c'era. Comunque cerca questionario per radioamatori in Svizzera. Vai Gianni. Che un ingegnere elettronico trova difficoltà, guarda di questa domanda, questa è capitata all'altro esame. Un trasmettitore SSB, J3E, vengono identificati gli SSB, sui 3700 kHz, viene modulato con un tono sinusoidale ad 1 kHz, in banda laterale inferiore. Qual è la rappresentazione dello spettro corrispondente a questo caso? E deve indicare il grafico. Cioè, domanda è anche abbastanza complicata. Io dico, non so se lo dico al mio vicino di casa che è ingegnere elettronico, ma come dice? Però sto dicendo, Gianni, non è uno scherzo. Cioè, se tu mi dici sei un ingegnere elettronico, che queste cose le mangi tutti i giorni, le vedi tutti i giorni, mai è una passeggiata, cioè le dai per scontate. Una persona normale, di cultura normale, parliamo oltre il normale, perché qua stiamo parlando di cultura oltre normale, è altamente difficile passare. E poi si è fortunato, tipo quello che era seduto a fianco a me, che se glielo passate io, gli altri le ha messi a casaccio, c'è la tentata, tipo quello che ti fa il CIE a superare la moto, a quel punto è un altro discorso. Perché qua c'entra anche la fortuna. Così bisogna prenderla, come che siamo già a caso una fintina, a un certo punto è così. Io posso pensare che ci potrebbe arrivare solo un docente che spiega che queste cose le tratta, hai capito, giornaliere. Io un tempo nella RAI c'era, non so se mi tocco i programmi, dopo c'era poco, faceva questi corsi, che ricordo, e c'erano le toniche, c'erano delle cose. Guarda Gianni, io ti dico una cosa, io ho preso il test d'esame dei radioamatori di coso, di non mi ricordo se sono di Ivrea o di dove cavolo ci sia, tutte le domande, non ne sbagliavo uno, dove c'è il ricordo, poi c'è un altro test dove ci sono 90 domande, gruppi di 90 domande, a risposta multipla, ci sono tre risposte, ma abbastanza difficile, quest'ultimo infatti è stato il migliore che ho fatto, quello lì, e di rimani qualcuno l'ha sbagliato, più che altro un po' per disattenzione e stanchezza, perché quando fai 90 domande alla fine sei un po' stanco a farle tutte qua, però alla fine mi dava sempre il risultato eccellente, eccellente, non prendevo mai meno di ultimo, le facevo sempre. Poi di queste domande capitate di lì, non me ne è capitata manc'una. Pensa di questo libro, di queste domande svizzere, ce ne sono capitate una ventina e quelle sono altamente, altamente difficili, proprio molto evolute. Poi tutte quelle della normativa, chiunque va e le risponde, c'è una sola sulla normativa, statuto primario e secondario, chiunque ci va, cosa vuol dire R, che vuol dire ricevuto, cosa vuol dire Mike nell'alfabeto fonetico, cosa vuol dire QSB, cosa voleva dire QRL, quelle sono domande facilissime. Di quelle ce n'erano 5 in tutto. Tutto il resto erano domande di tecnica altamente evoluta, non ce n'era una facile. Per dire, se tu mi dici, Robè, che domanda hai trovato facile? Mica domanda facile, perché nel senso perché non c'era da sbagliare, perché c'era la formula, non c'era possibilità di errore, una volta che c'era la formula, quella lì, della frequenza di risonanza, calcolare la frequenza di risonanza, era quella lì e basta la risposta, non c'era da sbagliare. Ma delle altre, tutte le altre domande erano risposte ambigue, cioè nel senso tu una era giusta e l'altra poteva essere giusta lo stesso. E di lì uno molte volte se la tenta. Quello lì è stato fortunato ed è andato bene. Non in Sardegna, da altre parti d'Italia, e qualcuno ha detto era difficile, qualcuno ha detto che era una fesseria, nel senso si è trovato benissimo, quelle domande le ha pubblicate, quelle che le hanno messe erano molto ma molto semplici, secondo me loro hanno modo di sceglierle queste domande, cioè hanno una banca dati per dire di 1000 domande e poi scelgono a seconda delle voglie loro e dalla difficoltà che ti vogliono mettere, perché questa volta per dire rispetto all'altra volta c'erano più domande sulla normativa, l'altra volta ce n'erano tre, tra normative, codice Q e non mi ricordo le abbreviazioni, ce n'erano 5 questa volta, l'altra volta ce n'erano 3. Per dirti già da quel punto di vista era un po' più semplice, almeno due domande in più di facilitate, però quelle dell'elettronica sono rimaste difficoltose e anche peggio dell'altra volta. perché era abbastanza complicato. Ok, io prima di chiudere volevo ascoltare Sandro se ha trovato qualcosa, se no ci sentiamo, me lo saluti tu, sempre che riesca a sentirti. Sandro, ci sei? Sì, confermo, sto caricando un paio di PDF, ho notato per esempio ci sono due tipi di esame, di tecnica e di prescrizione, sono quattro le risposte addirittura. Quella svizzera? Sì, c'è la possibilità, c'è quattro alternative di risposta. Per esempio, qua c'è, qual è la potenza massima all'uscita del trasmettitore sulla frequenza 14.295 per una concessione per radioamatore CEBT 100, 1000, 25 o non vi è alcuna limitazione? Ma quello della svizzera è quello? Ehi, ah, quello tu stai guardando le normative, no, guarda l'elettrotecnica. E poi segnate anche questo sito, se te lo vuoi segnare anche tu, Gianni, è interessante, dove ci sono le domande. È www.radio-amatori.it. Ecco lo scrivo, Invito anche tu questo appunto, guarda, io ce l'ho da tutte le parti, li ho presi. Sei pronto, Gianni, a scrivere? Sono proprio studiando, come si chiama, cioè un'azienda vecchia, perché c'è un'azienda che ha tutte le commissioni dei microfoni, che non ho come lo faccio, ma non mi sei, allora abbiamo detto, www.radio, ripeti il resto lo prego. Abbiamo detto www.radio-amatori.it. Trattino alto, così? Il meno, dai, chiamiamolo meno. Radio Amatori. Staccato radio, trattino alto meno sarebbe, amatori.it, questo è uno. Poi ce n'è un'altra, hai scritto Sandro? Sì, sì, sono già sulla pagina, ma l'avevo già conosciuto questo forum. E poi guarda, questo è il più bello di tutti secondo me, è molto interessante perché ti puoi mettere il numero delle domande, puoi mettere 10 domande, 20 domande, 30 domande e poi alla fine ti dà il risultato, ti scrive buono, pessimo, male, eccezionale. Questo qui però devi metterlo nel motore di ricerca. Scrivete quello che vi dico io, ve lo dico per lettera. Allora, Italia, Napoli 3, Roma, X, Gorizia. Poi è minuscolo, diciamo, è corsivo, Italia, Napoli, 3, Empoli, Bologna, fino a alto, Veblog, quindi per lettera ve lo dico, THE, Torino, Hotel Empoli, Bologna, Livorno, Otranto, Golf. Io sono arrivato, guarda, allora ho scritto... Aspetta un attimo. Novara 3, Roma, X, Genova, Empoli, Novara 3, Empoli, Bari, Bravo, trattino alto. Allora, questi sono due radioamatori, una donna e un uomo, Sandro, forse avete parlato insieme, lo ripeto. Allora, questi sono i nominativi di due radioamatori, uno è Italia November 3, Roma, Romeo, X, G di Gorizia. L'altro nominativo è Italia, November, 3, Ecco, Bravo, poi, vedete, trattino, questo è il motore di ricerca, trattino alto, H, E, ripeto, Tango, Hotel, Ecco, poi Spazio, Tavo, Lima, Oscar, Golf. Questo qui mettetelo come motore di ricerca e poi c'è scritto scarica testa d'esame, questo è il migliore che ho trovato. Ok, comunque per farla più facile basta indicare ciò, perché se lo scrivi tutto per intero non lo trovi, devi mettere solo il primo nominativo, India November 3, Romeo X-Ray Golf e basta, il primo risultato è esattamente sulla quella stringa che hai detto tu. Ok, sei entrato, prova un po' a entrare. Sì, c'è una specie di diploma, c'è un marito e moglie. Quello lì, guarda dove c'è scritto quiz d'esame o prova d'esame, una cosa del genere. Aspetta, devo andare a cercare. Tra le pagine. Ah, simpatico, c'ha gli RSS, i feed. Interessante. Aspetta, però non lo sto provando ancora. Quello lì ti dice quante domande vuoi rispondere, ti è scritto il numero della domanda, vuoi continuare sì o no, c'è scritto schia CS, ti dice sì o N no, e poi ti dice per dire 20 domande, schia sì, invio, e poi c'è la risposta. Ci sono tre risposte e tu vai avanti, è bellissimo, quello proprio veramente è fatto bene. Hai visto quella? Ma niente, non lo sto provando questa bottina di CD. È molto lunga la pagina, ho lasciato una scogliata di più, ma non sto provando, perché non c'è, vabbè, non c'è. Oh, la pagina non è una pagina singola. Tu centralmente dove c'è scritto quiz, prova d'esame, una cosa del genere, scarica, e tu schiacci e te lo scarichi. C'è scritto apri e ti appare una paginetta nera e ci sono le domande. Ma quello informato a mettere dopo? No, non credo, aspetta, c'è una PDF, adesso non ti vorrei dire se sì, l'ho visto tempo fa, però l'ho scaricato tranquillamente. No, perché io ce l'ho un eseguibile che ti chiede quante domande vuoi, quante domande vuoi tre risposte, tu rispondi e ti dice esatto e adatta, esatto e adatta, e alla fine ti dice ti dai reso conto. E da un file che si chiama E-Test. Mi sa che è la stessa cosa, mi. Dici, non sono riuscito ad aprirla questa. No, quello di in questa pagina no, non trovo la voce dove cliccare, però quel file lì l'avevo già scaricato tempo fa, ce l'avevo già da un po', infatti ho fatto molte prove con quello. Ma quante domande ti fa fare quello lì che stai dicendo tu? Puoi impostarlo tu, lui ti chiede quante domande vuoi, tu gli dici fino a 90, 10, 10, 20, 30, quello che vuoi, e poi dopo le 30 domande, errato no, ti dice hai fatto 23 giusti. Sì, il principio è lo stesso, nera, una pagina nera e i caratteri scritti in bianco. Sì, sì, una schermatina ne mette dopo. Era la stessa cosa. E quello lì è stato, questo è abbastanza interessante. Poi questo radiamatori.it l'hai provato. Sì, sì, ma questo ce l'ho già passato, adesso comunque se lo sapete nel direttino, ne metto un appunto e me li salvo. E poi c'è quello dell'Ari di Verona, lo stesso che ho di Faenza, adesso non mi ricordo dove cavolo sia, però tu basta metti il test d'esame per radioamatore, scrivi quiz esame radioamatore come motore di ricerca e ne trovi decine. Ok signori, io adesso vi devo lasciare, per me si è fatto un po' tardi, perché domani penso anche per voi, giornata di lavoro, comunque è sempre un piacere ascoltarvi e fare quattro chiacchiere. Ciao Gianni da Muros e Sandro da Ghero. Avremo modo di sentirci in altre occasioni. Ciao ciao a tutti, cuoretti da parte mia. Ciao. Ciao ciao anche a te Gianni, ok, vi siete un po' sovramodulati a vicenda, Sandro con coso, non ho capito Sandro perché arrivi un po' più basso di lui, comunque ti rilancio il mic, ha salutato anche Gianni Capri che interrompe, perché vabbè tanto non vi sentite, non c'è problema, ok, ti rilancio il mic così aspetto il finalino, ciao ciao. Infatti ero un po' dubbioso se riprendere o meno perché non ho la convinzione se è importante lui o meno. Ok, salutone Roberto, grazie, già ci aggiorniamo presto, 7351, buon PRT a te e salutoni anche a Gianni, Capri 2, ci sentiamo.